Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. In piedi per Milla. Grazie Paolo per avermi fatto cantare questa canzone. No, grazie a te della gara così. Perché ci tenevo tanto, mi piace questa, mi è sempre piaciuta, l'ho cantata spesso, sempre con molto trasporto. A chi pensavi? Dimmi la verità adesso. Con molto trasporto. Dai, con molto trasporto verso chi? No, adesso... Cioè... È la stessa persona alla quale pensavo quando cantavo Una notte così, una notte come questa. Quando correvi nuda sulla spiaggia di Acapulco, no. Non era lui. Non c'era lui là. No, adesso... Ci vuole del genio e dell'intrepidezza per rievocare Nilla Pizzi che corre nuda sulla spiaggia di Acapulco, soprattutto quando lei ormai andava per gli 80 anni. E di questo fu capace Paolo Limiti. Paolo Limiti è morto poche ore fa, un nome che probabilmente per la parte più giovane del nostro pubblico non dirà assolutamente nulla. Per la parte, diciamo, di porzione intermedia, che più o meno la mia generazione, di quelli che sono nati assieme alla televisione, io sono classe 1954, nascevo quando nasceva la televisione e in fondo la mia vita, anche se vengo da una famiglia di astensionisti antitelevisivi, la televisione rincoglionisce, diceva mio padre, io vidi il primo televisore in casa che penso avessi già quasi finito il liceo. Però la televisione mi contaminava lo stesso, perché quando ero piccolo andavo a casa dei bambini dei contadini a vedere la televisione che stavano attorno a me. Loro ce l'avevano a casa, non ce l'avevamo. Loro ce l'avevano, mettiamo lì fra le galline, maialini, mangimi, vedevamo Mago Zurlì, quindi ho quell'esperienza di televisione. Poi andando avanti nel tempo la televisione si vede, si va a vedere a casa degli amici, in fondo questa sorta di fioretto perenne in non guardare la televisione ha fatto sì che per un periodo lungo della mia vita mi occupassi di televisione e facessi il critico televisivo. Raccontavo tutti i giorni la televisione della sera prima alla radio. Iniziai proprio nel periodo in cui ci fu il ritorno di Paolo Limiti in televisione. Lui tornò con il programma Ci vediamo in TV nel 96, era il periodo in cui io facevo Golem alla radio Rai e raccontavo la televisione. E per me era un piatto ricchissimo. Ogni giorno su Paolo Limiti c'era qualcosa da dire, qualcosa da immaginare. Questo signore con il capello flambé color ocra d'oro, ocra rosata, questa era la nuance del suo capello, apparentemente pazza e sicuramente pazza, che però aveva una moglie ufficiale, Justine Matera, che era, per 2 anni la Rai lo fece sposare con questa signorina Matera, che oggi è la reginetta di Instagram. Questa mattina ho visto Justine Matera risponde al caldo posando nuda su Instagram. Sì, lei è ancora una modella che può posare nuda e Paolo Limiti non è più, ma già da allora c'era la necessità di creare questa sorta di immagine ufficiale. Sì, perché lui era uno zitellone, era totalmente disinteressato sicuramente a compagnie femminili, però era un grande perché anticipò quella che poi è diventato il sostentamento a televisione di servizio pubblico. La Rai in quegli anni ancora dava l'illusione di volersi rinnovare, di voler immaginare nuovi scenari, diventare un'azienda competitiva. E Paolo Limiti invece portò all'interno del palinsesto Rai, che era tutto proteso verso la rincorsa della televisione pubblica, quello che era il seme che oggi rappresenta l'alimento principale della Rai, quello della nostalgia, della resumazione. Paolo Limiti fu il primo mummificatore della TV mummificata, quando ancora non c'era la percezione che esistesse un passato televisivo, una storicizzazione della televisione. Lui riportò in televisione quelli che erano ormai cascami, che erano fuori dal giro di una televisione che in quel momento veniva quasi rinnegata. E Paolo Limiti oggi dovrebbe essere considerato come una sorta di genio precursore di quello che è l'alimento base. Tutta la televisione pubblica, almeno della gestione Campo dall'Orto, è stata una grande risumazione. Quindi io dedicherò questa trasmissione allo scomparso grande resumatore dei cadaveri della televisione che fu. A tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Melog, cronache meridiane. Dai, vediamo un po' cos'è. È sull'Angela Melillo, che dici? Sull'Angela Melillo, ma ancora su di lei, poverina? Sì, l'ho preso un po' di mira, però tu devi promettermi che non ti arrabbierai assolutamente. Non lo so, vediamo. Promesso? Non ho ancora promesso, vediamo. Fammici pensare. Guarda che devo pagare il mutuo, eh? Va bene, d'accordo, vai allora, forza. Vai, Giancarlo! In realtà, lo sberleffo di Paolo Limiti ai braghettoni regolarizzatori di un suo status civile della RAI, che gli hanno imposto la Matera, che era la sua valletta, ma doveva essere anche sua moglie, è Flora Dora. Flora Dora era il vero protagonista di quel programma. Flora Dora era una barboncino fucsia, lo sentite, avete sentito, questo è il compleanno di Flora Dora, che in realtà era il contrappunto. Dice: voi mettete la Matera come moglie, io vi tiro fuori Flora Dora. Flora Dora era veramente, io mi ricordo, su Flora Dora inanellai cose terribili, dissi che era un cane zombie, che era un cane zombie verniciato di rosa, che era il cane zombie verniciato di rosa, che era la vera anima di Paolo Limiti, adonta della RAI, che voleva dargli comunque uno status. Ma guardate che Paolo Limiti non fu soltanto un revocatore di glorie televisive, e non lo faceva con la necrofilia tipica di Teche Teche Teche, che ancora è considerato uno dei programmi di maggior successo della RAI, ancora da fondo a quello che è il magazzino. Perché? Perché mira a un pubblico nostalgico, e per alimentare la nostalgia non c'è di meglio che sfogliare le cartoline, le fotografie dei bei tempi che furono. No, lui era veramente al di fuori del tempo, viveva quell'epoca, aveva a che fare con gli artisti con cui aveva condiviso comunque un'epopea. Paolo Limiti è un autore di canzoni di Mina, canzoni fantastiche, tipo questa. Sentitemi un po'. Un giorno il diavolo mi incontra per strada, mi dice: vieni che nessuno vede, ho tutto quello che ci vuole per te. E sacundi, sacunda, sacundi, ci penso un bel po', e lui continua con la voce sua dente: avrai i vestiti, la bellezza, l'argento, adesso invece c'è la noia per te. E l'anima totalmente dissacratoria, in fondo anarchica, sotto quel caschetto di capelli che andava a seconda delle versioni del suo programma, dal mogano chiaro al rosa confetto con delle nuance, con vari riflessi, c'era un'anima ribelle. Mina cantava questa canzone, fu censurata, la RAI non la voleva sentire per tanti anni, perché in realtà parlava di quello che era il simbolo della bellezza, dell'intraprendenza, di cui si favoleggiavano appetiti smisurati, che aveva avuto anche storie travagliate, che era appunto Mina. Mina, pochi la ricordano, ma era la più grande icona della canzone italiana femminile, tanto che a un certo punto prese e sparì, scomparve. Ebbe veramente, è viva, vivente, produce, ma non si vede più. Ebbe il coraggio di scomparire. E l'unico tramite che ancora aveva la televisione italiana con Mina era appunto Paolo Limiti, suo amico, suo compositore, suo paroliere. E Sacundì Sacundà è la storia di, appunto, il simbolo che si vende al diavolo. Ma immaginate cosa poteva succedere nell'Italia codina, democristiana e iperconfessionale, pensare che la trasgressione concessa, che era Mina, che in fondo però aveva un aspetto tutto sommato appetibile ma compatibile con quello che era il limite imposto alle famiglie, che era determinato dalla pesantezza in denari dei collan coprenti delle gemelle Kessler, che improvvisamente si dà il diavolo. Se si dà il diavolo rappresenta una tentazione, quindi una rovina famiglia. E Limiti ebbe il coraggio comunque e l'ardire di mettere in bocca la rovina famiglia, quello che veramente tutti hanno pensato: è il diavolo che la manda. Ciao, sono io. Buonasera, dottore. Amore mio. Sì, mi dica. Non resistevo più, pensavo a te. Ah, bene, direi che è importante. Quando verrai? Ma adesso non so, dipende. Non parlare se lì c'è lei, lascia parlare me. Questa questa è cantata da Mina, però l'originale che scrisse appunto Limiti la cantava Claudio Amori. E anche qua riconoscerete comunque il segno della totale dissacrazione, quello che fa tremare il partito dei familiari uniti, del popolo delle famiglie. Buongiorno dottore. È un uomo che viene raggiunto la telefonata dell'amante mentre sta a casa e non può dire che buongiorno dottore, ma può dire buongiorno ragioniere, buongiorno geometra, buongiorno caro amico mio. Lei gli sta parlando della loro travagliata e clandestina storia d'amore. Immaginate, poi, nell'unico telefono concepibile in casa, che era il telefono che era fissato a una spina, nemmeno si poteva isolare. Non è come oggi, prendi lo smartphone in bagno, tiri lo sciaccone e dici quello che vuoi, o mandi via WhatsApp, cetrioli, caramelline, fragoline, e quindi puoi mantenere un'infinità di rapporti clandestini. Allora l'unico rapporto clandestino può avere il suo alimento maledetto dal telefono, che il telefono ha sotto presidio dell'arpia muliebre, dei figli, delle nonne, delle zie. E quindi Paolo Limiti concepì la canzone della persona che poteva parlare con l'amante al telefono, chiamandola tristemente, ciao dottore, un uomo vigliacchissimo. 800 24 00 24, vi basta intanto questo anticipo? Non vorrei che parlaste di Paolo Limiti, a meno che non abbiate argomenti precisi. Vorrei che ricostruiste questo scenario di una televisione che rappresentava un'Italia che in fondo era molto apparentemente diversa da quella che stiamo vivendo, ma in realtà ha molti punti simili, solo che allora non si diceva, solo che allora non usciva in superficie. Quindi quali sono i ricordi o i modi d'essere, le situazioni familiari che avete legato a quel tipo di televisione? 800 24 00 24. Intanto Andrea Amato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Andrea Amato è direttore responsabile di TV Zoom, è un magazine online di spettacolo. Oggi chi parla di televisione lo scrive online perché fa molto prima rispetto a chi scrive sui giornali, paludati, analisti della televisione, e fa anche molto più male, perché ancora se oggi si possa mai parlare di analisi critica della televisione, ammetto ci sia, quello che vanno a guardare poi i conduttori, i produttori, i personaggi, è quello che si scrive in rete, perché è quello che veramente crea un contatto immediato, quello a cui si deve rispondere. Tu, Amato, quanti anni hai? Scusami, intanto. Io sono del 74, vado per i 43 anni. Sì, no, non sei proprio giovanissimo. Tu hai fatto in tempo a lambire un po' di televisione di Paolo Limiti, però? Ahimè sì. Sì. Dico ahimè perché ovviamente mi tengo al cordoglio umano per la scomparsa dell'uomo, ma non ne ho un giudizio televisivo, soprattutto del suo ritorno negli anni 90-2000, non ne ho un giudizio positivo. Beh, io ero affascinato, perché tu capisci che ogni giorno avevo una materia di cui parlare che non mi dava certo Piero Angela. Certo, sì, quindi sì. Ogni giorno io prendevo, svisceravo, sbudellavo ogni parvenza di umanità che c'era in quel programma. Però guarda, rispetto a quella domanda che ho fatto all'inizio, come la vedete? Paolo Limiti anticipò quello che poi è diventato un trend. Allora era l'inserto che andava a recuperare un pubblico che cominciava a averci già la flebo e già cominciava a avere problemi di catetere. Oggi mi sembra che sia era considerata perlomeno, visto che gli avvicendamenti sono così veloci, la grande genialata della TV di Campo dall'Orto, andare a rimettere le mani in quella roba. Quello sicuramente, si parte però da due, secondo me, punti molto distanti. Oggi è la mancanza di risorse che ci porta a quel tipo di televisione. All'epoca invece era il pensiero unico imposto dalla Raiset, no? Il duopolio che è diventato un unico monopolio, dove il totale addomesticamento dello spettatore, consumatore ed elettore avveniva a reti unificate. E quindi sia nella radio di allora come nella Mediaset di allora, il pensiero era unico ed era quello di addormentare ogni tipo di sussulto di coscienza, e la televisione di Paolo Limiti con un pupazzo come voce critica Flora Dora e una italo-americana senza né arte né parte se non una lontanissima somiglianza a Marilyn Monroe, erano i cardini dello spettacolo, condito da aneddoti mai verificabili all'epoca. Quindi insomma, non ne ho un giudizio televisivo positivo, ecco. Ma sì, ma quello faceva, era stato chiamato a fare quello. Lui, certo, in fondo, certo. Era il resumatore di mummie che non si vedevano più in televisione da anni. Lui cominciò a ritirarli in televisione. Poi quanti format televisivi hanno preso ispirazione nella Rai da quel tipo di televisione Parolin? Però un certo punto lui fu silurato, scomparve, ebbe una grande fortuna. Per una serie di anni fece anche una domenica in, era sempre presente. Con la Venier. Sì, con la Venier. Poi improvvisamente accade qualcosa, cambiò il giro, Limiti fu fatto fuori in qualche maniera, si lamentò un po', ma nessuno se ne accorse. Mentre la Matera è riemersa ultimamente come eroina dei social network, dimostrando che in realtà c'era una differenza abissale fra i due. Lei oggi la vedi molto attiva su Instagram e di lui si parla come qualcuno che ancora ridette vita a una televisione che già allora era morta. Ecco, vediamo un po' di capire nella televisione più attuale, più presente, quanti hanno in realtà attinto da quello che faceva Paolo Limiti. Conti per primo, Paolo Conti per primo. Conti sicuramente, ma tutto il filone successivo della vita in diretta, che solo nelle ultime due o tre stagioni si è spostato sulla cronaca nera, perché poi quello è il trend. Adesso la gente dopo i bei ricordi vuole anche un po' di sangue, ma in realtà tutto quel filone della televisione del pomeriggio è stata fatta di ricordi, di nostalgia, di rimpastare e rimasticare contenuti con fiumi di parole sprecate e inutili, però sì, è un tipo di televisione tuttora in voga. Allora, ci fermiamo soltanto un istante, riprendiamo fra qualche minuto. Ricordo al pubblico il mio invito, 800 24 00 24. Stiamo facendo assieme a Andrea Amato una analisi di quello che è stato la presenza televisiva di Limiti, quanto poi ha influenzato il resto della televisione in generale. Parlare di una televisione che è un caso abbastanza singolare, che recita continuamente se stessa, che ripresenta il suo bolo alimentare, poi alla fine dovrà inventarsi qualcosa di nuovo. Lo diciamo da anni, ma continua a sopravvivere. Ma voi di questa televisione cosa ricordate? Cosa vi siete portati a casa? Qual è l'impronta che ha lasciato nella vostra vita? Mi piacerebbe molto sapere se in realtà è totalmente estinto e non ha più possibilità di un minimo di barlume critico ed espressivo il pubblico della televisione, o nelle persone che ascoltano questa radio, che sono sempre un campione interessante, significativo del sentire italiano, esiste una possibilità di giudizio rispetto alla deriva televisiva attuale. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Musei a cielo aperto, gioielli dell'arte e della natura da vivere, ma anche da preservare. Da Firenze a Venezia, da Roma alle Cinque Terre, ci si interroga. Come conciliare il turismo di massa con il decoro e la sicurezza del territorio e delle opere d'arte? Venezia pensa al numero chiuso, Firenze bagna le strade. E gli altri nel mondo, che fanno? Un viaggio tra arte, natura e rispetto, in onda fino al 30 giugno nel GR delle 7. E un reportage dedicato sabato 1 luglio alle 7:15 su Radio 24 e su radio24.it. Melog, cronache meridiane. Vogliamo vedere un pezzettino? Vai un po', vediamo che cosa ha combinato. Vai. Come parla mamma gatta quando deve insegnare l'aristocrazia? Come si chiama? Aristocrazia la chiamiamo. Oddio, è una brutta parolaccia. Non volevo dire questa cosa. Si chiama Thor. Ha orecchie molto grandi e diritte. Una lievissima cicatrice sul naso. Ha un neo nero vicino ai testicoli. Vabbè, questo è d'accordo. E poi aveva un collare a catena di maglia di metallo. Per lei dice, per cortesia, vabbè, lì era il neo, che ci posso fare? Allora, dice, fatemi finire questo intimo. Il primo amore in senso passionale, non l'amoretto dei 12 anni dalla scuola. Il primo amore che tu hai vissuto. Vuoi sapere quando l'ho data? No. Perché? Immaginiamo, sei matta! Non rinnego niente, non è che dico, vabbè, quei film. No, e perché devi? Lo voglio fare. Bombolo lo vedi ancora qualche volta? È morto Bombolo. Ah, porco cane, scusa, questa è una gaffa tremenda. Ci arriverò anche io da lui, sicuramente la prossima. Naturalmente poi quando i personaggi della televisione generalista sopravviveranno in rete, sopravviveranno attraverso i loro momenti meno brillanti, le loro gaffe. Questo è un blob di gaffe di Paolo Limiti di tutti i tipi. Il lambire e lo sfiorare le allusioni sessuali per lui, che era apparentemente al di sopra di ogni possibile declinazione sessuale, era già pesante. Domandare avere da Gigliola Cinquetti la ragazzina che non ha l'età, che tutti immaginavano che fosse la figlia ideale, che non ha l'età per amare, quindi rimarrà eternamente il balocchino tenerone, la madre della padre, che dice: vuoi sapere quando l'ho data? Perché passati gli anni, ha cambiato la voce, ha cambiato il modo di essere, e lui ancora è convinto di parlare con la Gigliola Cinquetti che non ha l'età. Giacomo, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io ricordo Paolo Limiti perché l'ho esperito nel suo rigurgito anni 90, per l'appunto. Piaceva mio babbo, che ora non c'è più, e ne discutevamo perché io lo detestavo, Paolo Limiti, proprio per questa sua figura da van spettacolo di bassa lega, insomma, che però ha avuto tanto successo. Bassa lega non tanto, che la van spettacolo è tutto sulla battuta salace, sul doppio senso. Lui era molto moralista, tutto sommato, nella sua essere scanzonata e quindi giocare poi sui sottofondi, capito? Però non si passava mai il limite, figuriamoci. Era la persona giusta per persone come suo padre, che a metà degli anni 90, in cui il mondo televisivo stava cambiando, andava bene. Ma devo rendere giustizia a mio padre, che ne riconosceva i limiti, però lui apprezzava il fatto che fosse stato paroliere, se non sbaglio, di Mina. Mina è la citava continuamente, un'aneddotica su Mina, come diceva giustamente poco fa il collega Amato, che messi tutti in fila gli aneddoti di Mina raccontati da Paolo Limiti, ci vogliono 6 vite di Mina per viverli. Comunque va bene. No, ecco, senta, io le volevo chiedere una cosa, se la sa oppure se verrà fuori. Limiti, come mai non ha mai condotto un Sanremo che io avrei visto il suo ambiente ideale, cioè proprio un pesce nell'acquario, sinceramente. Mica tanto, adesso sentiamo cosa ne dice. Io le do la mia versione, perché Limiti aveva il grosso limite di non essere un formato famiglia. Era lo zio un po' strano, un po' strambo, zitellone della famiglia, ma non rappresentava né il bravo figlio di famiglia, né il bravo padre di famiglia, né lo scapestrato. Insomma, Limiti, c'era qualcosa che comunque la Rai non è mai andato giù. Non era ancora stato sdoganato fino in fondo. Andrea Amato, ricordo, direttore di TV Zoom, tu cosa ne pensi? Perché non gli ha mai dato Sanremo? Lui l'ha sempre sofferta questa cosa, l'ha sempre apertamente detta. Beh, però oggettivamente non aveva lo standing per giocarsi con Mike Bongiorno o certo. Pippo Baudo, che all'epoca dominava il festival con Maffucci. Era ovviamente, soprattutto negli anni 90-2000, andava bene per un contenitore pomeridiano per attempate casalinghe o pensionate, non era sicuramente in una shortlist per l'evento più importante della televisione italiana e della Rai, quindi insomma era nato e congelato in fascia pomeridiana, ecco, infatti hanno preso a Domenica Inn, anche perché onestamente Sanremo apparentemente può sembrare una cosa facile, ma ci vuole un senso del ritmo, del tempo. Lui tendeva a debordare, non aveva il senso del tempo televisivo, della scansione, si perdeva nei suoi ricordi, non può essere soltanto ricordo Sanremo. Assolutamente, sì, gli piaceva raccontarsi, parlarsi e parlarsi addosso, quindi non veramente non credo sia mai finito neanche in una lista possibile. Insomma, il suo recinto era televisivo, era quello lì, e da lì infatti non è veramente mai uscito. Dopo un'epurazione, insomma, finito dopo il 2005, credo sia stata la sua ultima edizione di Domenica Inn, era stato riesumato 7-8 anni dopo per l'unico vero valore aggiunto, cioè fare un programma su Mina, e quindi oltre quello non è mai andato. Sarà curioso capire, vedere, interessante come si esprimerà Mina poi su Limiti, perché lui l'ha stracitata sempre. Bisogna capire adesso cosa dirà Mina, perché dal suo esilio prima o poi su lui non potrà non esprimersi. Senti, volevo continuare però con te a capire un po' su questa vicenda del repertorio televisivo che sembra ancora imperare. Per quanto tempo potrà andare avanti? Perché noi abbiamo parlato del programma di Limiti metà degli anni 90, in cui era forte l'affiancamento, diciamo, di RaiSet, però la Rai aveva questo vantaggio, che aveva la storia che ancora Mediaset non poteva aver accumulato, era troppo fresca. Poi anche Mediaset ha cominciato a storicizzare, ma i programmi della prima ora, degli albori dei programmi della cosiddetta TV commerciale hanno lo stesso valore di nostalgia che hanno il valore della RAI. Ecco, però quanto ancora in realtà secondo te si può andare avanti nella resumazione? Perché teche alla fine a un certo punto finirà il momento della nostalgia. Quando finisce la nostalgia televisiva secondo te? Con gli inizi degli anni 90? C'è un momento in cui non è più nostalgia ma è talmente uguale alla attualità che non si può più dire che è TV nostalgia. Beh, insomma, questo finché non ci sarà innovazione in televisione, perché sarà meglio rivedere Studio 1 o tale quale show, cioè Lelio Luttazzi e Luciano Salce o Gabriele Cirilli che si trucca dal bano e rumina con i suoi tormentoni. Quindi finché la televisione non si rinnoverà, il guardare indietro sarà sempre meglio, perché le produzioni avevano un fasto che oggi non è pensabile, e col passare del tempo probabilmente anche gli anni 90, mi viene in mente la TV delle ragazze o Avanzi, sono già dei cult che su YouTube fanno milioni di connessioni. Quindi in realtà questo gioco potrebbe andare avanti all'infinito finché non si arriverà al deperimento degli anni 2000 e quindi alla mancanza di qualità data dalla mancanza di fondi, e lì ci sarà ovviamente il punto di rottura. Oddio, sembra che definitivo. Per Fabio Fazio i fondi non finiscano mai, non vorrei. Sì. E come la vedete questa vicenda? Scusa, visto che ormai è una vicenda è diventata un affare nazionale, la politica ci ha messo le mani, sembra che sul caso Fazio si stia giocando l'assetto dei prossimi governi. Come la vedi questa cosa singolare però? Perché Fazio, ci sarebbe da fare una trasmissione su Fazio, mentre Paolo Limiti è decifrabile, raccontabile, Fazio in realtà è talmente sfuggente che è impossibile definire il fenomeno Fazio. La RAI, in un momento in cui sembrava che se ne andasse, me ne vado, non c'è più nemmeno il cavallo, non c'è più niente, arriva in una rete ammiraglia con una paccata di soldi in più in un momento in cui tutti abbiamo le pezze al sedere. No, tanto più che si è parlato di tetto agli stipendi dei talent RAI per anni, e poi è arrivata questa notizia. Non credo assolutamente che una fuoriuscita di Fazio dalla RAI per andare poi alla 7. Ma figurati se la 7 lo manterrebbe a quelle cifre, ma stiamo scherzando. Quelle cifre mai, ma sicuramente, ma poi non sarebbe stato neanche così un danno per la TV di Stato. Invece ti do una notizia che noi abbiamo appena dato su TV Zoom, è che pare che Massimo Giletti sia scomparso dalla brochure dei palinsesti REC presentati domani. Giletti è andato a fare un incontro con Orfeo ieri, pare sia uscito sconsolato da questo incontro e non sa che cosa fare. Quindi, ma non è che lo posso cancellare come nelle foto dei tempi stalinisti? Cioè, se ne parla già dell'uscita di Giletti dalla televisione pubblica italiana, perché già anche in questo c'è, cioè, colorazioni politiche, ma addirittura proprio non esiste più, è stato cancellato. No, perché lui si riserva queste ultime ore per accettare o meno l'offerta, il contentino che gli ha dato Mario Orfeo, il nuovo direttore generale della RAI, ovvero qualche prima o seconda serata con degli speciali su Rai 1 dopo la cancellazione. Che poi lui faceva gli speciali su Padre Pio, ti rendi conto? Gli sì, speciali sì, Padre Pio, su Battisti, se riusciva sulla guerra, cioè spaziava veramente. Quindi non deve più parlare delle cose che gli dava tanto gusto parlare, che erano dei tagli agli stipendi dei politici, di tutte queste cose che in realtà probabilmente in una televisione che vuole la vita tranquilla potranno dar fastidio. Certo, ci fermiamo un istante e poi riprendiamo. Pensare in questo momento il vessillo del rivoluzionario e della persona scomoda sia quello di Massimo Giletti mi fa molto pensare su quello che poi sia il clima generale o lo spazio dell'intrepidezza del dissenso nella televisione italiana in questo momento. Ci fermiamo un istante. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Melog, cronache meridiane. Quello che volevo sapere con Gino, sì. Questo bellissimo e magnifico rapporto finché è durato, voglio dire, è stato, c'era uno scambio continuo fra di voi? Assolutamente sì. Ma perché lui diceva che rideva molto con te e tu dicevi che piangevi molto con lui? Ma perché lui ha questa visione un po', lui sembra sempre che tutti ridono con lui, in realtà ha fatto soffrire un sacco Gino per il carattere che ha. E anche te, tu piangevi per lui? Sì, sì, sì, moltissimo. Cioè io ero così come una telenovela, che quando lui arrivava era tutta colori, quando andava via era tutto in bianco e nero. Poi si scompisciava sempre Pallolini, battuta di Ornella Vanoni, Gino Paoli, colori bianco e nero. Immaginate mediamente un telespettatore con un'età inferiore ai 70 anni quanto poteva essere interessato, poteva ridere a questa battuta, ma la risata di Limite probabilmente corroborava, dava dei palpiti, dei brividi di vitalità alle persone che erano già impietrite davanti al televisore, perché dal 54 imperterrite guardavano le stesse cose. Sandro, buongiorno. Buongiorno. Ha un ricordo personale? Sì, ho un ricordo personale, sono della tua stessa classe, ti ho detto tu, e con, da bambino con mio papà e mia mamma andavamo a Lazio e lui era sempre, nel periodo estivo, era sempre seduto su una comoda poltrona di un grande albergo che c'è lì a Lazio, del quale non faccio il nome per non far pubblicità. Beh, oddio, metteranno una lapide, qui sedeva Paolo Limiti, non so quanta pubblicità poi fa. Comunque, cosa succedeva poi? Faceva, cosa stava? No, niente, io passavo e mio papà e mia mamma lo conoscevano perché la prima televisione che è arrivata in paese i miei l'avevano e quindi indirettamente io mi annoiavo, però poi ho capito col passare del tempo che era una persona splendida, perché aveva una parola buona per tutti e tutti erano lì quasi non a farsi un selfie se loro non esisteva, o chiedere un autografo, ma per parlare, perché era una persona molto disponibile. Poi passando il tempo mi sono sposato con mia moglie, abbiamo avuto una bambina e abbiamo ripetuto la stessa cosa facendoglielo conoscere, e poi lei che è un tipo un po' vintage anche se è giovanissima, cioè, ha voluto che andassimo al parco di Alassio a sentire i suoi revival degli anni 20. Mi ricordo che quell'anno lì c'era i New Trolls e quant'altro messi insieme, e faceva degli spettacoli che in tre ore passavano sorridendo, la gente era contenta, tutto lì. Quindi quello che era il suo formato televisivo in realtà era la sua attività di uomo di spettacolo, proprio a gomito, cioè proprio a braccio, senza nessuna difficoltà, e quello che era fuori era anche dentro. Volevo solo dire questo, una persona. E che personaggi venivano a questi suoi spettacoli a Lazio? Guardi, io ne ho visti diversi, perché poi non quando ero giovane io che non ci andavo, perché andavo a altri spettacoli di altre musiche, però poi con mia figlia dunque mi ricordo i New Trolls, mi ricordo i Big Dick, mi ricordo i Corvi, una parte di quelli. Ah, quella volta con i New Trolls c'era il batterista del PSM, che adesso mi sfugge il nome, ecco, e hanno cantato le loro canzoni migliori, ecco. E questo è chiaro, però torno con Andrea Amato. Vedi che però in realtà Limiti portava in televisione quello che era il suo pane quotidiano, faceva spettacoli in Riviera l'estate, andando a ripescare, in questo forse c'era una sua acume imprenditoriale, i personaggi che ormai erano già fuori da ogni possibile appetibilità, e li riportava comunque, li ripresentava a un pubblico. Però non dimentichiamo, visto che l'abbiamo citato, che con Anima Mia questo fu la grande investitura di Fabio Fazio come personaggio, che era qualcos'altro oltre un imitatore televisivo. Anche Fazio iniziò la sua fortuna riportando in televisione Oretta Berti, Cugini di Campagna, tutte queste vergognosi ricordi di un'epoca che tutti volevano dimenticare e che improvvisamente è diventato, sotto lo sdoganamento del trash, qualcosa di figo, di bello da ricordare. No, quello assolutamente, il meccanismo esattamente lo stesso, è il linguaggio che cambia, e se Limiti quello è l'emblema del nazional popolare, Fazio in maniera molto più furba e anche un po' paraculo l'ha reso radical chic dal un punto di vista intellettuale dello spettacolo più appetibile. Ma diciamo che dietro c'era un lavoro, ma lo possiamo dire, c'era un lavoro occulto, nascosto e mai sufficientemente riconosciuto di Tommaso Labranca, che è scomparso, ma Tommaso Labranca scrisse vari libri su Anima Mia, su quei personaggi, era autore di Fazio. Fazio divenne il genio di queste cose, Labranca è morto praticamente quasi in povertà, perché nessuno riconosceva di aver ricreato un valore culturale al trash, dicendo che in fondo in questa emulazione fallita nei modelli alti riconosciamo gran parte del nostro paese. Ma Labranca era un intellettuale, Fazio è un raccontatore intelligente, furbetto, per pubblico televisivo. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Il povero Labranca, appunto, come dicevi tu, lo conosciamo noi addetti ai lavori, ma in realtà è stato il primo ad aprire quella breccia che Fazio ha cavalcato con tutta la furbizia e anche il mestiere, perché per l'amor di Dio... No, vabbè, figuriamoci, nessuno glielo riconosce. Però se la formula è la stessa, il risultato è diverso tra Fazio e Limiti, ma anche perché quello che salva Fazio è il disincanto, la pseudoironia e il distacco. Limiti invece proprio era la sua vita, il suo pane, insomma, si nutriva di tutto quello. Avete fatto una ricostruzione con gli audio, insomma, è emblematica, perché è riuscito probabilmente in maniera involontaria a smontare dei miti della musica leggera, della televisione italiana fino ad allora quasi inarrivabili, quasi eteri, la Cinquetti, la Vanoni, e lui in pochi minuti li ha resi non solo mortali ma anche quasi squallidi nelle loro cose, e questo purtroppo non sapevo mai, ma sai, in questo volontario. No, da parte mia assolutamente volontario, ma come ogni ricordo che ha ammantato la nostalgia rende tutto bello e tutto appetibile, poi quando riporti immediatamente alla cruda realtà con un occhio critico ti rendi conto che era tutt'altra cosa. Vivevamo in un immaginario cialtrone, limitato, infantile e soprattutto da parrocchia totalmente. Ascolta questo. Fa molto piacere. Senti Renata, io volevo, sai cosa mi sarebbe piaciuto fare? Ripercorrere un po' tutta la tua vita. E perché non rifiutavi di fare certe opere che magari De Sabata piuttosto che Toscanini eccetera ti volevano spingere a fare e tu dicevi no, non me la sento. Perché? Perché avevo paura di rovinare la mia voce. Ah, era questo? Sì, sì. Era questa la cosa. La mia vita è stata tutta per la mia voce. Lo credo. Ma come ti sei accorta davvero? Questo grande dono di Dio che mi ha dato. Puoi dirlo, la voce d'angelo, come avevo detto. Sì. Adesso vi spiegheremo perché. Raccontiamolo subito. Sì, perché sì. Capisci, la voce d'angelo, Dio ti ha dato questa voce, Renata Tebaldi. Se non ci fosse stato Paolo Limiti, avrebbe avuto una sfumatura molto più veloce nell'immaginario delle persone. Invece, rivederla anziana, nostalgica, pia e in qualche maniera disponibile a scendere dal piedistallo di diva e raccontarsi insieme a Flora Dora, insieme a Giustin Matera, ha dato l'idea che in fondo anche i grandi della televisione hanno un'anima, ma soprattutto sono esseri umani deperibili. Grazie, alla prossima!